Lo sapete perché non ve meritate niente? Perché alla fine, nelle mattine come queste, ve dovete beccare buongiorno un cazzo. Spero, insomma, che in qualche maniera vi entri e vi rovini la giornata. Perché ieri era il Carbonara Day e non mi avete detto un cazzo. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna. Andate alla fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Ma te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! E buongiorno carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti a questo nuovo episodio della nostra meravigliosa trasmissione delle 7 del mattino del giovedì, che vi dà il buongiorno un cazzo a tutti quanti, in modo che voi vi possiate svegliare, se non con la rabbia, almeno con un minimo di riflessione, che sono appunto i spunti che cerco di darvi, anche se spesso senza cognizione di causa e soprattutto, questa cosa che è molto più importante, senza la minima preparazione. Ricordatevi che potete interagire con noi, se proprio volete scriverci qualcosa potete tranquillamente scriverci su runtimeradio@gmail.com, oppure ancora meglio potete partecipare asincronamente in maniera sincrona o sincrona tramite la nostra bellissima chat su Telegram, che è telegram.me/dirette runtime, oppure su Telegram cercate Runtime, c'è anche il nostro canale che vi tiene informati su quello che succede nella quotidianità della nostra radio. Dico questo perché giustamente e poi dopo farò riferimento, infatti questa puntata un po' la dedicherò all'interazione, dato che ho ricevuto appunto dei messaggi, mi piace insomma magari cercare di dare delle risposte, perché alcuni sono spunti di riflessione sicuramente, altri magari mi hanno fatto capire che nel momento in cui ho cercato di esprimere un certo tipo di concetto magari non è passato o comunque non mi sono spiegato bene e via dicendo, quindi magari è giusto cercare di precisare. Però detto questo, vi ricordo anche che runtimeradio.it non serve soltanto per ascoltare la trasmissione, ma serve anche per andare sul pulsante anch'io e fare una donazione, una tantum su PayPal o ricorrente su Patreon. Se vi capita, avete l'opportunità, fatelo, perché il nostro progetto è comunque in continua attività e soprattutto evoluzione, e i costi ci sono. Tra l'altro lo dico tranquillamente, insomma abbiamo perso un donatore di 10 euro al mese, quindi insomma questo per noi può sembrare, magari può sembrare poco, però in realtà per noi è una bella pezza, insomma, diciamo così, e ci costringerà a ridimensionare alcune cose, tipo appunto Epidemic Sound, che come dicevamo era un po' che dicevamo che l'avremmo eliminato, invece abbiamo resistito per un po', però poi alla fine siamo costretti insomma a dover lasciar perdere da questo punto di vista, perché alla fine comunque con quei soldi noi ci pagavamo quella licenza, insomma, quindi per non andare troppo poi dopo a ritornare ai vecchi tempi in cui non eravamo più sopra lo zero ma eravamo sotto lo zero, cosa che in questo momento insomma non sarebbe assolutamente una cosa buona. Ecco, se volete, se potete, date una mano a Rantem Radio, che insomma sicuramente ve ne sarà grata in qualche maniera. Detto questo, io parto con il mio brano della mattina. E niente, mi andava ad aprire così stamattina con Banco di Mutuo Soccorso, e con questo brano che ovviamente non è una canzone nel senso più tradizionale del termine, e quindi questa sonorità, questa atmosfera che ci ha regalato questo brano in qualche maniera, ecco, adesso lo roviniamo con la nostra bellissima base che è comunque figa, però insomma chiaramente è un po' una sorta di doccia nel cielo e nelle altre cose, Banco di Mutuo Soccorso appunto. E volevo prima di dateci Pizzi, vogliamo sentir Pizzi, eccoci qua, sì sono appena arrivato. Allora ragazzi, prima di arrivare al momento in cui ascolteremo due audio che mi sono arrivati da Mauro, quindi un ascoltatore, e ringraziare in maniera particolare comunque anche il buon, adesso vi dico chi mi sono perso un pezzo, mannaggia la miseria, va bene, Corigaci, eccolo qua, me lo so perso, il buon Corigaci, che come sapete mi ha lasciato dei messaggi anche critici, nel senso più che critici di appunti, insomma, su alcune cose che avevo detto e che magari erano state sbagliate. Io non l'episodio scorso ma due episodi fa, insomma, l'ho ringraziato proprio anche dedicando insomma la descrizione della puntata al fatto che è insolito ricevere dei commenti su Spreaker, perché in realtà Spreaker per noi oramai è una sorta di tramite. Una volta succedeva più spesso perché Spreaker, come abbiamo detto, con la sua funzione di social radio cercava praticamente di creare interazione fra le varie realtà live e semplicemente podcast. Oggi questa cosa non è assolutamente più così, come abbiamo detto tante volte. Spreaker è diventata una sorta di piattaforma anche di monetizzazione, quindi è cambiato proprio la logica. Quindi ricevere dei messaggi tramite Spreaker è abbastanza insolito. Però io me ne sono accorto perché, grazie al cielo, ogni tanto Spreaker si ricorda di mandarti una mail se arrivano dei commenti, altrimenti non me ne sarei proprio accorto. Io non ci vado praticamente mai a vedere i commenti delle puntate. E grazie insomma ai suoi commenti abbiamo avuto modo anche insomma di correggere alcune questioni, soprattutto quella più seria, quella più grave, diciamo, che ho fatto come errore, ma veramente da un punto di vista mnemonico in quel momento ero convinto che fosse così, ossia di confondere il Qatar col Kuwait quando abbiamo parlato insomma dell'invasione dell'Iraq durante la prima guerra del Golfo negli anni 90, il 91 mi pare che era. E quindi vabbè, ringrazio ovviamente l'ascoltatore che tra l'altro mi risponde ringraziandomi e che ammette insomma che Spreaker è un posto abbastanza insolito dove lasciare i commenti, ma lui ha scoperto il nostro progetto tramite Spreaker e quindi diciamo che rimane legato magari a quel tipo di abitudine. Però ecco, ti ribadisco, se vuoi, se hai la voglia, se è comunque ti fa piacere anche interagire con noi, io ribadisco che telegram.me/dirette runtime, qualora tu usassi Telegram per poter poi ovviamente magari venire a interagire direttamente con noi e correggerci nelle cose che diciamo, perché veramente mi ha fatto veramente piacere. Devo dire, tante volte quando uno riceve un po' l'appunto, no, rimane un po' piccato, invece a me mi ha fatto piacere perché io lo so che spesso e volentieri mi approccio la mattina, magari non sono proprio preparatissimo, accendo il microfono e comincio a parlare come sto facendo adesso, e magari lo posso fare veramente per un'ora intera senza dire assolutamente niente. Però insomma cerco sempre di dare dei contenuti, dei miei punti di vista, diciamo delle riflessioni sulle quali poi voi potete ovviamente ribattere. L'interazione è assolutamente importante, senza la quale programmi come questi non avrebbero assolutamente senso. E poi mi dice che praticamente gli farebbe piacere di ascoltarmi insieme a Sant'Agostino e Paganini. a proposito, che fine ha fatto? Questa è una domanda che dovresti fare a quelli che si occupano di questioni tipo Area 51 o cose del genere. No, in realtà Stefano è vivo e lotta tra noi, ma insomma, vabbè, sta dietro a Stefano è complicato, insomma, pure lui dice famo, poi dopo magari c'ha altre cose da fare, insomma, vabbè, quindi in questo momento è sicuramente impegnato in altre questioni, però ci vuole bene, noi gli vogliamo bene, anche se ogni tanto magari ci fa un po' incazzare perché fa sparire gli hard disk, ma... Però al di là di questo, insomma, Paganini è sempre tra noi, lotta, e ogni tanto gli piacerebbe dire, dicendo che ah sì, quasi quasi torno a fare un episodio con voi, ma e vieni su Telegram, ti dicono, caro Coricaci, quindi insomma, se vuoi vieni, facci piacere, insomma, vabbè, Paganini c'è, quindi però non difficilmente farà un nuovo episodio di archeologia informatica, qualora insomma dovesse succedere, perché magari c'ha l'idea, c'ha lo spunto, insomma vi avviseremo, ma sarà una cosa abbastanza eccezionale. Detto questo, io prima di passare appunto ai brani, cioè i brani agli audio che ho ricevuto tramite Mauro, che ringrazio perché insomma, è stato uno di quelli che all'inizio, quando abbiamo fatto la trasformazione del nuovo studio di Runtime, è quello che ha, diciamo, regalato anche dell'hardware Runtime che ci permette insomma di tenere collegate delle cose insomma, alla fine comunque ogni cosa che è stata messa a disposizione del Runtime Radio ha trovato la sua funzione all'interno del banco di regia. Però ci ascoltiamo un po' di musica. Oggi il mood delle nostre canzoni di Epidemic Sound, insomma, per quanto dureranno ancora non lo sappiamo, anzi penso 3 settimane al massimo, perché poi scade l'ultima mensilità. Il mood è tutto rock anni 50, vediamo se stavolta ha senso quello che dicono o se sono cose così scritte a casaccio. Day. Oh, right there you took my breath away. Oh, young and pretty, was it just a dream? The next day you called me up. You told me I'm your little buttercup. You came over and you fell into my arms. Well, I know what I feel. Please tell me your love is real. You make me smile when I think of you. If I down my neck, I'm going crazy from just the thought of you. A long blonde hair and your beautiful smile, your sense of humor makes it all worthwhile. Don't make me wait, it's not a funny game. You know just what I feel. Please tell me your love is real. You make me smile when I think of you. If I if I am down or when I am blue, when I can't get enough, can't get enough, I can't get enough. Vabbè, io non lo so che ci vedono i nostri carissimi amici Blacktop Banks con questa sonorità del magari del rock anni 50, anche se qualcosa magari nello spirito, nell'allegria della canzone, insomma, forse allegria. Poi Hopeless Lover è il titolo, tra l'altro l'ho trascritto anche male sulla chat, ma chi se ne frega, tanto alla fine insomma, comunque a me sembra un poppino, un rocchettino, poppino allegrino, che però comunque è carino, dai, ci può sta, anche se non rispecchia la descrizione, diciamo, che è stata inserita all'interno del, del brano. Vi ascoltate Mauro con insomma, con le sue riflessioni. Simone, io stavo ascoltando Buongiorno un cazzo di ieri e niente, siccome ci tengo molto a voi, volevo proporti alcune riflessioni. La prima riguardo quella che dicevi della caldaia, che mi ha sempre fatto molto ridere perché è una cosa che riscontro dappertutto attorno a me. Io, tieni presente che sono un idraulico, un installatore di caldaie, e da quando c'è stata la possibilità del super, dello sconto in fattura, cosa che prima facevano solo le grandi aziende come Enel, così, è stato un'enorme fortuna. Perché? Perché mi ha permesso di poter fare concorrenza alle grandi aziende, perché mi sono comportato bene, perché non ho aumentato di 3 volte il costo della caldaia come ha fatto il tuo idraulico. C'è una parola per queste persone, si chiamano ladri e vanno segnalati, perché non è molto molto molto etico quello che è stato fatto. Ci sono degli aumenti anche importanti. Noi su alcuni marchi di caldaie abbiamo avuto il 20% di ricarico tra novembre e gennaio, in 2 ricarichi diversi. Dipende un po' dalla marca e da quello che installi. E per noi è stato un enorme vantaggio, perché noi avevamo il problema delle grandi aziende che ci facevano concorrenza sleale. L'Enel, Eni e simile possono farsi pagare la caldaia a rate sulla bolletta, mentre invece noi no, loro possono scaricare immediatamente sul costo, sulle tasse che pagano loro, io non posso lavorare 5 anni gratis. E questo è questo giusto per dire che non sono tutti ladri, e che chi si comporta così è un bastardo e bisogna sanzionarlo, bisogna fare dei controlli. Allora, senza meno, questo mi permette di aprire un po' un attimo un discorso su questa cosa che avevamo già aperto. Io poi ovviamente ho già interagito con Mauro e quindi cioè lui già sa, insomma, più o meno quello che penso, escludendo il discorso onesti disonesti, perché io sono assolutamente convinto che c'è gente che fa il proprio mestiere con la convinzione di farlo nel meglio dei modi, ovviamente nel tentativo di guadagnare, perché lo scopo, insomma, di ogni libero professionista è quello di portare i soldi a casa e magari creare benessere per la propria famiglia e per i propri cari, e magari c'è gente, appunto, come abbiamo detto, anzi sicuramente c'è gente come Mauro che lo fa nel migliore dei modi possibili, secondo quello che gli è ovviamente messo a disposizione, ma il problema è che questo è un ambiente globalmente abbastanza particolare, quello che ha a che fare con gli operai, con gli idraulici, con gli appalti, con i bonus, con tutta una serie di determinate cose. Dico appalti non a caso, perché dopo comunque c'è una seconda parte del messaggio che fa riferimento a una cosa nella quale veramente lì evidentemente mi sono spiegato male. Il problema, Mauro, è che qui non si tratta di essere onesti o disonesti in quanto persona che viene da te, ti installa e ti vende la caldaia a 2 volte il prezzo, praticamente guadagnando 3 volte tanto considerando il 50% di sconto in fattura. Qui si tratta di un sistema, che probabilmente è legato anche a zone magari... io non lo so questo se succede al nord, al centro, al sud. Io ti dico quello che succedeva qui, ma che succedeva qui anche in senso più estensivo, cioè che magari comunque l'idraulico fa questo tipo di operazione, l'altro idraulico è, non dico costretto a fare la stessa cosa, perché magari viene messo un po' in mezzo dagli altri idraulici, però poi alla fine comunque, diciamo, c'è un allineamento da questo punto di vista, e questo è un tipo di comportamento che rientra in una sorta di nostra sottocultura, no? Quella italiana, quella del birbone, che comunque costringe anche agli altri ad essere birboni, perché se non sei un birbone sei un infame. Un po' questo è un po' il discorso. La cosa però che, sulla quale io ho voluto far notare che non è il fatto che il tizio ti vende la caldaia che costava 1000, improvvisamente costa 2000, e quindi lui va a guadagnare 3 volte tanto su quella caldaia, così improvvisamente, senza motivo, ma soprattutto per incassare subito i soldi di quella caldaia, perché dice vabbè, ma se io me la devo far pagare la metà, ora che recupero roba genere, a me tanto datemi i soldi quelli, insomma, tanto datemi i soldi, poi dopo vediamo quello che succede con sconti e non sconti. Ma al di là di questo, appunto, a parte delle singole realtà, quindi quelle che ti stanno intorno, che ci sa il disonesto e l'onesto, in realtà la questione era diventata un po' più sistemica. Perché se io andavo su Amazon, la caldaia che vedevo che costava 1500 euro, improvvisamente costava 3000 euro. Ora, il perché, il per come e secondo quale meccanismo questa cosa succedeva, io non lo so, ma siamo testimoni, io e Michela e anche altre persone, che abbiamo visto questa cosa, che di per sé ci faceva incassare doppiamente. Perché se tu mi dici, io uso un pretesto qualsiasi per aumentare il prezzo, non sono d'accordo, ma ci può avere una logica. Ma se c'è un bonus che permette a me di pagare di meno e a te comunque di farti entrare ugualmente i soldi, perché tu devi aumentare quel prezzo quando in realtà è più comodo per tutti, è più facile per tutti il fatto che comunque usando quell'agevolazione sicuramente si lavora e si vende di più. Forse non è quello che gli interessa, magari, no? Però io andavo su Amazon, magari non da Amazon direttamente, ma da rivenditori su Amazon, improvvisamente le cose che costavano, la caldaia che ha comprato Marco Gualdi 6 mesi prima dei bonus costava 1500 euro e poi improvvisamente costava 3000 euro. Questo è un fatto, ok? Poi dopo il perché, il per come, le modalità, l'onestà, la disonestà che ci sta dietro a questo tipo di situazioni, io purtroppo non conosco bene i meccanismi. Conosco alcune persone che lavorano male nel loro modo di lavorare, lavorano male perché la loro logica, cioè io non te so dire il perché, insomma, perché a volte sarebbe il caso proprio di non di non entrare nel merito. Però ecco, per esempio, mi sono trovato a una cena dove si parlava dei bonus di questa installazione dei caldaie e c'era un tizio che diceva che i bonus erano uno schifo perché permettevano di lavorare a tutti, cioè nel senso, io faccio questo lavoro nel mio campo, lo faccio io, dato che ci sono i bonus che permettono un'apertura dal punto di vista economico, perché permettono a tanti professionisti di accedere magari a quel tipo di lavoro, non va più bene perché quelli là mi vengono a mangiare l'orticello mio. Quindi alla fine, come te metti, c'è sempre un problema in questo paese, perché non c'è mai un senso logico nelle regole che si mettono e soprattutto non c'è mai la buona volontà dell'applicazione nelle cose che sono state decise. Ognuno deve in qualche maniera scavare in qualche modo in una direzione diversa, in modo che quella cosa, quel vantaggio diventi un vantaggio 2 volte superiore. E questa è una cosa che purtroppo è successa. Quindi al di là, no, ribadisco, del professionista onesto e di quell'altro che alla fine fondamentalmente è un truffatore, c'è un sistema intorno che purtroppo funziona così. Poi chiaramente in alcune aree dell'Italia magari non sarà proprio così, in altre aree sarà di più così, però questo è un fatto, penso, costante, perché se io vado su Amazon, che non è indicativo dal punto di vista regionale, e vedo che ci sono determinati prezzi su determinati prodotti, mi rendo conto che questa cosa è evidentemente, perché quello sì, può anche sta in un posto magari dove sono un po' più balordini, diciamo così, però poi vende a livello globale e c'è comunque un Amazon che in teoria dovrebbe controllare da questo punto di vista, no? E questo è un po' quello che è successo a me e Michela una volta, quella volta c'è stata quella terribile nevicata. Io ogni tanto la cito sta situazione perché mi fece veramente ridere. Le catene, ci fu quella terribile nevicata, praticamente le catene da neve quanto possono costare? 40 euro? ci siamo fermati a un autogrill perché mentre tornavamo a casa è iniziato a nevicare, che una cosa già eccezionale qui, e ci abbiamo messo da Grottaferrata a Monterotondo, ci abbiamo messo tipo 3 ore a tornare perché era impraticabile tutta la neve che era scesa. Siamo fermati in un autogrill a comprare le catene costavano 170 euro, raga. Cioè, perché? Perché in quel momento c'era una contingenza e non c'è nessuno che controlla, perché se arriva il vigile e il vigile si gira dall'altra parte, a meno che tu gli dici guarda vigile che queste costano 170 euro, ma come la mettiamo? Un po' questo è il discorso, no? In ogni situazione c'è sempre un... Però mentre quella era una contingenza sulla quale alla fine il negoziante ha voluto speculare, e c'ha una logica sugli accessi agli sconti in fattura, il fatto di aumentare ulteriormente il prezzo di un prodotto, io questa cosa non la capisco. Quindi se volete poi mandarmi altri audio e spiegarmeli che tipo di logica e meccanismo c'è dietro, io sono ben contento, insomma, di farvi ascoltare e di magari di ragionare anche su questo. Epidemic Sound, insomma, ci sta un po' a tradire, perché alla fine questa era segnalata come brano cantato. E, leggo Roberto Marin che dice: aggiungo un paio di cose sul discorso. C'è stato un aumento generale dei prezzi, come ad esempio il legno lamellare, che io non so neanche cosa sia, però immagino che dice che ovviamente è triplicato il prezzo. Altra cosa da tenere in considerazione sono le spese bancarie. Qui ci arriviamo, infatti questo messaggio è un po' acceso, diciamo. Ho visto applicare percentuali dell'importo lavori intorno al 15% per l'apertura della pratica. Vabbè, poi giustamente ricordiamo che Roberto non solo c'ha ovviamente il suo podcast Snap Architettura Imperfetta, ma è un architetto che applica la sua esperienza e la sua professionalità all'interno del suo podcast, che parla sì di architettura e tecnologia, quindi è anche abbastanza interessante. E io che l'ascolto praticamente tutti i giorni, cioè come tutti i giorni, e sì, perché Snap alle ore 13 va tutti i giorni su runtimeradio.it, quindi il ripercorso di tutte quante le puntate storiche, e a volte oltre a parlare di tecnologia, applicazione della tecnologia sull'architettura, parla anche di questioni strettamente più tecniche legate anche al discorso burocratico e quindi ovviamente a tutti quelli che sono i bandi, le normative e via dicendo. Quindi è interessante, sarebbe interessante fare una puntata su questo, magari prendere degli spunti e delle domande da parte delle persone, dei consumatori più semplici come me, e fare ovviamente una puntata. Tra l'altro diciamo che ok i lavori, ok le spese bancarie, ma adesso su questa cosa ci arriviamo, perché io poi ho detto una cosa che evidentemente non sono stato molto compreso. Io parlo della semplice caldaia, non sto parlando poi dell'applicazione di ulteriori costi sull'installazione, e non so quando è aumentato o triplicato il costo del legno lamellare, che ovviamente ti ribadisco non so cosa sia, ma sono convinto che sia importante, però noi stiamo parlando già da un anno fa, cioè nel senso, no, forse un anno fa, forse che era settembre, a ottobre, settembre, adesso non ricordo neanche quando, cioè quindi stiamo parlando già di mesi fa, dove questa logica era in piena esecuzione, diciamo così. Però appunto parliamone, magari approfondiamo questo discorso e facciamo magari una sera, ci ritroviamo e facciamo un episodio su questo tipo di argomento. Adesso andiamo al secondo audio, sempre di Mauro. Un'altra cosa invece è il discorso della disintermediazione che c'è stata ad esempio con Conte tra le amministrazioni pubbliche e le aziende. Quella è una cosa che io trovo devastante, negativa al massimo, e ti spiego perché. Perché questo, il fatto di poter lavorare senza un appalto e senza praticamente nessun controllo, ha fatto sì che nella migliore delle ipotesi i sindaci e gli amministratori pubblici hanno chiamato aziende serie e hanno fatto fare lavori come Dio comanda, hanno potuto mettere a posto che altre cose che prima sarebbe stato molto difficile fare. Dall'altra parte invece ha dato anche adito al fatto che un amministratore pubblico abbia potuto chiamare il cugino del cugino o l'amico o quello che l'ha votato o cose simili e far fare delle porcate e mettersi d'accordo dopo, il che non è un granché bello e non è sano per una concorrenza leale, non è sano per i conti pubblici, te lo posso garantire, e ho visto delle porcate davvero esagerate, ma lo vedi già nel grande, vedi gli appalti delle mascherine di Fontana, vedi tutte queste cose, sono da mani nei capelli. Il fatto che ci siano delle normative, ci siano dei controlli, ci siano dei passaggi burocratici piuttosto complessi, che ci siano dentro anche banche, non è necessariamente negativo, è una rottura di cazzo. Per carità, la rottura di cazzo ce la facciamo pagare, perché giustamente è tempo che sprechiamo, si chiama lavoro, e quindi è anche giusto che ci sia una remunerazione, però non è necessariamente un male, e bisognerebbe rivedere come sono fatti gli appalti, come sono dati, il massimo ribasso che c'è stato fino adesso non è il massimo, e quindi c'è dei principi, e boh, niente, ci tenevo a dire quello. Allora, intanto non avevo aperto il microfono e vabbè, intanto ringraziamo Mauro, mi dispiace per i rumori di fondo, è un audio di Telegram che ho provato con tutti i software possibili e immaginabili a pulire. Nell'anteprima i software lo pulivano, ma poi dopo questa pulizia non veniva applicata sul file. Evidentemente magari alcuni di questi file che vengono da Telegram sono talmente a bassa frequenza, o non so insomma che tipo di problema ci possa essere. Comunque si sentiva e si capiva. Allora, premesso, e anche qui premesso, che io vengo da una famiglia generazionale di assicuratori, quindi partiamo praticamente, la nostra è già la terza generazione, insomma, mio nonno, mio padre, io e mio fratello, e quindi ovviamente Michela, che facciamo questo lavoro, e lo facciamo anche a buoni livelli, nel senso che il nostro lavoro con le aziende, anche medio grandi, anche sul lavoro legato agli appalti, a tutta una serie di meccanismi assicurativi necessari ovviamente per le imprese, soprattutto a livello costruttivo, insomma è un lavoro che ha fatto parte della nostra vita da sempre. Non siamo ovviamente i grandi broker nazionali, ma siamo chiaramente un'azienda che ha l'esperienza su questo tipo di campo, e anche un'azienda insomma con le sue belle soddisfazioni, e quindi comprendo il tuo discorso e soprattutto lo sostengo, perché quando io parlavo di disintermediazione, quindi praticamente di tagliare l'intermediazione che c'è tra varie entità, lo Stato e il beneficiario, non intendevo ovviamente il discorso degli appalti, non era proprio... era lontana da me proprio questa cosa, perché non era quello il tema, e soprattutto perché alcune semplificazioni che hanno voluto alcuni partiti, ad esempio il Movimento 5 Stelle, per noi erano potenzialmente un... anzi, potenzialmente lo sono stati e sicuramente lo saranno, potenzialmente un rischio, perché levare tutti i meccanismi di acquisizione di un appalto a favore insomma di una semplificazione, chiaramente lì per lì può sembrare una cosa intelligente, ah che bello, meno burocrazia, in realtà dai adito in un paese come il nostro, perché dobbiamo, ritorniamo sempre a questo, in un paese come il nostro dai adito ovviamente al allo sparpagliamento insomma dei cugini e parenti e via dicendo, insomma, e questo è inutile insomma stare, poi l'hai detto anche tu. In realtà quando io ho parlato di disintermediazione, mediazione, parlavo dei bonus diretti, cioè di tutti quegli interventi che il governo Conte ha provato a fare, anche acquisendo ovviamente diciamo le risorse dall'Europa, che ha provato a fare verso i singoli cittadini barra le piccole imprese, ossia tutti quei bonus finanziari diretti o quelle agevolazioni di finanziamento che ci sono state nel momento del primo e del secondo lockdown in particolare, che erano un momento di smarrimento generale e soprattutto di potenziale catastrofe dal punto di vista economico e finanziario per tantissime imprese, come probabilmente per tantissime me lo è stato. All'inizio queste procedure erano disintermediate praticamente. Scusate, stamattina è l'ictus che colpisce. Cioè, praticamente tutti quei passaggi intermedi che le 100.000 lire che io devo dare a te non passano per le varie mani che strappano via un pezzettino e a te ti arrivano 80-75 mila lire. Non so, ho fatto questo uso insomma delle mila lire che è bellissimo, insomma, mi piaceva questa cosa, molto boomer, molto quanto so vecchio, no? E questo era un po' la cosa che dicevo, cioè Conte in quel momento ha levato il potere di intermediazione alle banche, facendo fluire direttamente i soldi verso il cittadino, la piccola impresa. E la stessa cosa anche nelle agevolazioni finanziarie, ha imposto ovviamente che non ci fossero posizioni di forza o di ricatto all'interno di quello che è questo tipo di logica. In realtà poi alla fine, e l'abbiamo raccontato, quando le banche hanno provato a tornare protagoniste hanno subito voluto rimettere lo zampino su questa cosa, che poi è un po' quello che ha fatto Draghi, no? Cioè ridare immediatamente l'intermediazione alle banche. Perché, e questo io l'ho fatto proprio come esempio, le banche si trovano economicamente a volte in difficoltà, no? E però se io sono un negoziante di scarpe, l'ho fatto l'altra volta l'esempio, così magari torno magari a specificarlo in maniera più chiara, se io sono un negoziante di scarpe e devo comprare 100 scarpe da mettere nel mio negozio per venderle, però ne vendo 80, è chiaro, cioè ne vendo 20 e me ne rimangono 80, è chiaro che io ho un problema dal punto di vista finanziario. Ma una banca che vende servizi e vende soldi non ha questo tipo di problema, non fa magazzino, non ha un investimento primario, se non ovviamente delle scelte finanziarie azzardate, sbagliate, dei soldi rubati, qualsiasi cosa possa essere, le banche vanno in crisi perché applicano delle logiche e delle azioni che non dovrebbero fare. Ovviamente alla fine quelli che ce li mettono sono sempre un po' i creditori, no? Allora, per aiutare le banche, tutto quello che riguarda il discorso finanziario passa e deve passare per le banche, no? Abbiamo provato per un periodo di tempo a fare un discorso diverso, a fare un passaggio diretto, e questo ovviamente ha creato dei problemi. Quindi quando io parlavo di intermediazione, di cancellazione dell'intermediazione, non ce l'avevo con tutto il presupposto burocratico che riguarda ovviamente gli appalti e le grandi imprese e via dicendo, ma riguarda ovviamente il passaggio diretto di soldi, dove questi soldi alla fine, se quando vengono consegnati alle banche, le banche in qualche maniera, anche se ti spettano, te li fanno pagare. Quindi cancellando l'intermediazione si cancella la disgregazione di quei soldi che passa di mano in mano fino ad arrivare a te, che sono diventati altri soldi. Cioè, è tutto là. Io ce l'avevo proprio col fatto che nel momento in cui c'è stato il primo momento di bisogno, il governo Conte, comunque, indipendentemente da come lo vediamo, se c'è stato simpatico, c'è stato antipatico, roba del genere, comunque ha iniettato per emergenza soldi verso le piccole imprese. Alcuni diranno: io non l'ho preso, governo di merda, viva la Lega. Perché poi voi dovete sempre ricordare, c'è un nostro ascoltatore amico che diceva: al ristorante dove lavoro io questi soldi non sono mai arrivati. Non è vero, perché se non sono arrivati, si vede che non gli aspettavano. Perché giustamente, quando io vengo a chiedere a te quell'iniezione d'emergenza, ti dimostro quello che io ho perso. Se tu non lo puoi dimostrare, perché chiaramente non hai mai pagato le tasse, ad esempio, ti attacchi al cazzo. Cioè, non è che ci vuole, insomma, uno scienziato a raccontare questo. Comunque, quello che volevo dire io era questo. Non parlavo di grandi che bisogna disintermediare tutto in qualsiasi caso, in qualsiasi situazione. Quello che dicevo io è che alcune situazioni come quelle dell'emergenza dovuta dal Covid, il primo lockdown, era stato disintermediato, e questa è stata una salvezza per le persone che hanno avuto bisogno. Ciò nonostante, come è stato spiegato più di una volta, quando sono arrivati ulteriori incentivi dicendo: potete chiedere ulteriori finanziamenti a costo zero, oppure a fondo perduto e via dicendo, le banche lì, dato che sono state richiamate in causa, che ti dicevano sì, lo puoi fare perché ti aspetta, però attento, perché che succede che io ti faccio la segnalazione in sofferenza, quindi scattava ricatto. Insomma, vabbè ragazzi, era questo che parlavo, non parlavo certo dei massimi sistemi, delle cose più semplici, di quelle cose più dirette che comunque riguardavano comunque il cittadino. I've been wandering down the same road back in. Van Psyche, che è Drop Dead, è la canzone, carina questa. Questa forse un pochino alcune sonorità anni 50, magari questo eco, questa batteria col delay, forse qualcosa, insomma, magari te lo ricorda anche, insomma, ma più anni 60. Vabbè, comunque chi se ne frega, questo è un po' quello che è uscito fuori da questa puntata. Io direi che, insomma, aprire adesso altri temi mi sembra abbastanza, insomma, superfluo e abbastanza inutile, e quindi facciamo quello che succede, insomma, più o meno verso quest'ora, più o meno, perché di solito durano un po' di più, arrivo proprio al limite, però insomma io direi che per oggi ci possiamo stare. Allora ragazzi, vi ricordo che su www.rantemeradio.it chiaramente troverete il nostro player e troverete il pulsante Anch'io, dove poter andare a fare le vostre donazioni. Sostenete il progetto, perché chiaramente il progetto continuerà a crescere nei prossimi mesi. Stiamo già lavorando a una prossima stagione e se le live nella radio sono aumentate, probabilmente aumenteranno ancora di più e continueremo ad assomigliare sempre di più a una radio professionale. Questo è quello che è il nostro impegno e quello che sicuramente vi promettiamo. Vi ricordo che questa sera alle ore 20 c'è di nuovo Walter Sbano con l'ultimo appuntamento della settimana delle orazioni della sera, e questa sera subito dopo alle ore 21, ragazzi, tutti pronti, tutti sul pezzo, perché si torna all'Udico Forum in crossover con i Beceri, quindi sarà anche Umberto Parisi, dove parleremo del grande ritorno di Ron Gilbert e il suo Monkey Island, quel Monkey Island 3 che avrebbe sempre voluto fare e che non era mai riuscito a fare. Quindi, insomma, questa notizia che è deflagrata così, insomma, nel mondo videoludico, e che nonostante i 30 anni di distanza dalla nascita di Monkey Island ancora fa grande effetto, fa grande rilevanza. Ho visto, insomma, gente strapparsi i capelli, persone piangere e commuoversi per questa cosa, e insomma questa notizia ha fatto veramente il botto, questo sicuramente, e sarà l'occasione questa sera per parlarne di questa uscita, di questo Return to Monkey Island annunciato da Ron Gilbert. All'inizio sembrava uno scherzo d'aprile, poi è stato ufficializzato come tipo di notizia. Non sappiamo niente, per ora non possiamo sapere niente. Abbiamo chiesto anche a persone che purtroppo non possono parlarne, però insomma in qualche maniera faremo le nostre speculazioni, vedremo anche il nostro stato emotivo e cercheremo di fare un po' il punto della situazione, di raccontare come si è arrivati a questo Monkey Island. Ci vediamo questa sera ore 21, lo dico forum www.rantemeradio.it. ciao belli, ci vediamo la prossima settimana con me.